fossi io, viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina la propaggine attiva online di questo programma, che è il mio profilo su Facebook, ha raggiunto il 4000esimo amico, quindi ho 4000 persone, e in questo momento ne stanno online soltanto 368, che in un modo o nell'altro durante la giornata hanno segnalazioni di quello che facciamo noi alla radio. Beh, questa mattina invece io pretendo da loro segnalazioni di quello che fanno loro in rete. Quello che facciamo noi in rete, non mi tiro fuori, mi metto sempre in gioco in prima persona. Sì, perché oggi vorrei parlare, visto che il corpo è così centrale nel nostro immaginario radiofonico, di relazioni incorporee. E quando noi, attraverso la tecnologia, che apparentemente sembra il più disumanizzante delle modalità con cui l'uomo può mettersi in comunicazione tra suoi simili, in realtà esalta fortemente un aspetto emotivo, un aspetto passionale, un aspetto profondo, per cui uomini e donne ormai negli ultimi anni usano quelle che io chiamo protesi emozionali come metodo privilegiato per mettersi in relazione tra di loro. La protesi emozionale può essere anche semplicemente un messaggino inaspettato che ti arriva sul cellulare e ti apre una voragine nei tuoi ricordi, nel tuo desiderio, in ciò che è rimosso, in ciò che cui non volevi più pensare. Non pensavi di avere più tempo e maniera e forma fisica per pensare. Ma allo stesso tempo le protesi emozionali sono quei luoghi meravigliosi, incorporei, eteri, irreali, e che si aprono ogni volta che noi ci sediamo al nostro posto di lavoro e accendiamo un computer. Molte persone in questo momento mi stanno ascoltando mentre stanno davanti a un computer, perché sono nel loro luogo di lavoro, usano quella macchina per scambiare lettere, per fare calcoli, per gestire personale, per fare un'infinità di operazioni difficoltose, importanti, strategiche, ma quella macchina allo stesso tempo ha il potere malandrino di tenerli calamitati. Per quella la macchina permette di espandere la loro velleità di essere qualcos'altro rispetto a quello che sono. Quindi contemporaneamente, piccolo, in basso, mentre si aprono i software gestionali, si aprono i software per mettere in comunicazione grandi aziende, si aprono i software per fare calcoli difficilissimi, mentre la posta elettronica avverte che, non so, i clienti da parti lontane del mondo ci stanno mandando le loro note importantissime, si apre qualcosa di piccolo, di impercettibile, di impalpabile, ci dà il segnale che quella persona, cui noi attribuiamo un nome simbolico, una semplice concina, una faccettina, da qualche parte del mondo si è svegliata e ci pensa. E allora ci dividiamo a metà. Una parte di noi, razionale, usa quella macchina come strumento giusto del lavoro, e un'altra parte, irrazionale, a volte reietta, a volte repressa, a volte inconfessata, lo usa per espandere qualcosa che di noi non conoscevamo prima che la macchina ci permettesse di conoscerlo. Beh, questa è la grande riscossa di noi piccoli, umidicci, mollicci, grigiastri, esseri del tutto disprezzabili, che nelle feste liceali stavamo sempre contro la parete, che non avevamo mai il coraggio di rivelarci, di chiedere a quell'amica meravigliosa e corteggiatissima di poter, non so, fare due chiacchiere con lei, che nessuno ci permetteva di aprire bocca, nessuno ci ascoltava. Beh, questo è il nostro regno, questo è il regno di chi si sente letterato, di chi si sente poeta, di chi usa la parola come strumento di lavoro. Insomma, la macchina, al di là di ogni luogo comune, è il vero luogo della libertà d'espressione sentimentale, affettuosa, amorosa e sensuale. Tra gli amanti virtuali, quasi tutti riferiscono con chiarezza il presentimento di aver incontrato una persona assolutamente speciale. Assolutamente speciale. Un mondo in cui qualunque fenomeno può essere descritto con un codice di 1 e 0. La persona che avrebbero sempre sognato di poter conoscere nella loro vita concreta. Guarda caso, sono tutti convinti che l'incastro giusto stava lì, dentro il computer, ad aspettare proprio loro. Un territorio in cui la mente umana da sola non può addentrarsi. Proprio quello che sembra combaciare perfettamente con ogni attesa, desiderio o pensiero nascosto. Cominciano così ad avere la sensazione che qualsiasi stato d'animo possa essere vissuto simultaneamente a distanza. Nel mondo concreto, magari, i due rincoglioniti d'amore vivono in ambienti diversi o appartengono a caste sociali per cui mai si sarebbero incontrati. ma per un legame sottile, chiusi a distanza dietro un monitor, si sentono vicini nello spirito ogni istante, ogni istante, ogni istante. 800 24 00 24. Mi rendo conto, questo può essere un argomento probabilmente lontano dall'esperienza del pubblico tradizionale che a quest'ora ascolta la radio, ma anche voi signore che mi chiamate palpitanti raccontandomi dei profumi dell'osteria della vostra fanciullezza, come è accaduto ieri, immaginate che qualcosa sta cambiando nel mondo, immaginate che la prima causa di trasgressione, di uscita dalla moderazione di un comportamento rettilineo secondo le regole che apparentemente impone la società, la prima causa di adulterio, di fuga da rapporti consolidati o la prima, il primo territorio di caccia grossa, sentimentale, amorosa, sessuale è ormai la rete. Ci sono persone che stanno davanti a un computer, che con la macchina che vedete, che usa l'impiegata delle poste quando andate a ritirare la pensione, che serve anche a qualcos'altro oltre che a staccare il bollettino del vostro versamento o della vostra pensione, serve anche a espandersi. Quella persona grigiastra con quel golfino dal colore impercettibile e con i capelli raccolti con l'elastico che vedete lì davanti, che è frettolosa, annoiata, che sembra non esistere come essere umano, probabilmente una principessa corteggiatissima, e probabilmente altri suoi colleghi dalla filiale delle poste di un'altra città stanno con lei intrattenendo un certamine amoroso come mai è successo nemmeno nella letteratura. E questo accade perché c'è il computer, macchina impersonale, macchina fredda, macchina detestata, ma che permette agli uomini di ritrovare ancora dei piccoli brandelli di umanità in un mondo che sembra avere sempre meno luoghi per potersi frequentare. 800 24 00 24. Improvvisamente non hanno più segreti per quell'essere senza corpo che è sempre disponibile all'ascolto. Pensa un po', sono così cretini da illudersi che possa esserci, nascosta in un buco del mondo, quella creatura sensibilissima, divertente, misteriosa che il nickname prediletto rappresenta loro. Uno spazio semplice e senza apparenze ingannatrici, che solo i computer sono in grado di produrre. Che solo i computer sono in grado di produrre. La passione a distanza attraverso protesi elettroniche spesso provoca palpitazioni dimenticate nella vita concreta. Nei momenti più bollenti della relazione, ma non solo, tutti i picchiatasti si confessano a vicenda di provocare inequivocabili reazioni fisiologiche che normalmente, a quanto dicono, in prima vita parrebbero essere molto meno immediate. Questa completezza di sensazioni emotive e fisiche mette il picchiatasti infoiato nella convinzione di vivere in una situazione quasi magica, un'occasione di felicità a cui sarebbe folle sottrarsi. È questo il mondo che io amo più di ogni altro luogo esistente. Cominciano naturalmente a arrivare numerosissimi messaggi sulla schermata di Facebook che sto vedendo in questo momento. Grazie, sono le persone che già stanno lavorando, già sono abituate comunque a scambiarsi messaggi, relazioni, impressioni. Facebook è un luogo in cui si scambia soprattutto fotografie, e le persone si cambiano la foto ogni giorno, molte volte del loro profilo, mostrano sempre delle foto che da avere un richiamo, un interesse, un simulacro della loro esistenza, e si comincia con commentare la foto, che bella foto hai messo oggi, e poi si va avanti, si entra velocemente, come sta sentendo nelle schede che ho preparato per voi, è frutto di una mia esperienza, perché io ho molto frequentato queste macchine, a uno stato di intimità e di presunzione di conoscenza dell'altra persona che nel tempo reale, nel mondo concreto, richiederebbe mesi di corteggiamento, di uscite, di chiacchiere, di scrutarsi, di guardarsi, di annusarsi. Beh, qui ci si arriva molto prima, e forse per questo le macchine sono dei velocizzatori relazionali. Mi dice Fabrizio: Gianluca, hai colto il senso. Infatti le donne le conquistavo con le parole, le poesie che facevo mie, le promesse, poi quando si palesavano all'incontro erano già cotte e pronte per essere mangiate. Lo prende in giro Romina, che risponde a questo suo messaggio e dice: dei Cyrano olografici nelle nostre idealizzazioni si vede il buco nero delle relazioni umane che si sta sempre più espandendo. Inishimita Iesota Netzak Hot. Chissà se la natura ha pensato che nel mondo concreto servisse in questo preciso momento storico qualcosa di simile per conservare la specie. Quanto sono noiosi. Gli esseri umani sono noiosi. E quelli che sono ossessionati da me sono i peggiori. Ormai non ne posso più di stare qui tutti i giorni. Gli unici momenti in cui mi diverto è quando parlo con voi. Magari la natura sta pensando a nuove alternative per indurre l'estro negli uomini. È come se il suo cervello fosse connesso direttamente al computer. È sbalorditivo. Mi scrive Alan, dice: mi sono inventato un personaggio apposta che mi permettesse di far scomparire la mia sedia a rotelle e l'affabulare giovani virgulti in braccia mature rose spampanate, ammantandomi di mistero e sensualità, che facesse evolvere la massa gelatinosa che sono in un corpo solido come il granito, illudendomi, incorporeo come un sogno proibito, finché l'unico dito con cui scrivo riesce a restare dritto. Ma io non so se è vero, se non è vero, ma è bellissima la storia dell'essere che umanamente, fisicamente, fortemente svantaggiato, e ritrova un luogo di espansione massima, perché noi siamo tutt'altro rispetto a quello che appariamo, grazie a Dio, ma la parte migliore di noi non è proprio esattamente questo il momento e l'epoca in cui può espandersi felicemente, liberamente. Siamo in un mondo terribile, un mondo pieno di convenzioni, pieno di pruderie, pieno di castrazioni intellettuali, mentali, sentimentali. Bisogna essere esattamente il contrario di quello che si è, o perlomeno l'apparenza racconta tutto di noi stessi, e quello che c'è oltre la corteccia, la superficie, sembra indifferente all'umanità. Beh, il luogo del massimo nascondimento diventa il luogo della massima espansione. Questo però crea anche dei problemi nel mondo concreto. Non vorrei, istigandovi a telefonare all'800 24 0024, poi se non chiamate non me ne importa nulla, posso continuare a parlare per giorni questo argomento, però vorrei anche proiettare l'esito di questo accadimento nel mondo concreto. Immaginate, lo dicono anche grandi economisti, lo dicono anche i cosiddetti guru del cyberspazio, visto che la relazione tra umani sta modificandosi così velocemente, non è più interessante l'appartenenza sociale, l'età anagrafica, il grado di distinzione sociale per permettere a persone di creare un nucleo affettivo. Quindi questo modificherà tranquillamente e velocemente anche gli assetti familiari, anche le maniere di mettersi assieme, di unirsi, di socializzare, e questo avrà sicuramente un importante effetto di mutazione anche nell'economia, che è basata appunto sul nucleo familiare come aggregazione base della società, ma anche in altri campi. Ho al telefono Giuseppe Vaciagobus. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti Giuseppe, ci diamo del tu perché ci conosciamo, e in questa trasmissione ho abolito la convenzione del lei ufficiale d'ordinanza che si usa da Marzullo in giù in tutti i programmi televisivi. Tu sei un avvocato che si occupa molto di questioni legate ai rapporti incorpori. Ecco, la caduta diretta e concreta di queste persone che si amano, che si abbandonano, che si affascinano, che si seducono in rete, qual è poi dal punto di vista di un legale che poi li trova davanti alla sua scrivania, che chiedono a lui di essere in qualche maniera salvaguardati? Ma diciamo che sicuramente il diritto si è dovuto adattare alle nuove tecnologie, questo è vero, però vorrei cercare anche di sfatare un po' il mito delle generalizzazioni, perché io credo che molto spesso si parla di una scissione troppo evidente tra realtà virtuale e realtà fisica. Io credo che fondamentalmente, almeno nella mia esperienza professionale di sedicente avvocato esperto di nuove tecnologie, ci sia una tendenza anche, ed è un problema soprattutto dovuto alla mancanza della conoscenza dello strumento informatico. Io direi innanzitutto questo, anche se esco un po' fuori dal tema, perché credo che a livello giuridico molto spesso si creano dei falsi problemi. Faccio un esempio tra tutti, io la chiamo la sindrome di Google. Vengono da me tantissime persone sostenendo di essere stati in qualche modo diffamati da Google. Poi si scopre che appunto il motivo è che semplicemente digitando su motore di ricerca, può essere Google o Yahoo, il proprio nome, magari il vicino di casa ha messo un blog e ci sono delle informazioni magari dovute, di diffamanti dovute magari ad una precedente causa condominiale. Quindi molto spesso poi c'è anche un problema di conoscenza dello strumento. Altro esempio è la classica foto fatta al mare con gli amici conosciuti al mare, e poi uno se la trova su Facebook taggata, cioè con il proprio nome, dice: come mai c'è la mia foto in mutande che faccio il coglione su uno scoglio? Perché? Perché te la sei fatta fare. Ma mi interessa, entrando più nell'ambito della relazione, io ho una casistica. Ci scrissi un pezzo agosto perché accadde un fatto molto triste: una ragazza di Rovigo si suicidò perché il fidanzato che lei aveva lasciato mise in rete delle foto intime che lei non voleva che fossero diffuse, era una cosa fra loro di cui hanno il diritto di chiunque di fare qualunque uso, ma non di metterle in rete. Ho trovato una casistica invece molto interessante, in quanto presente, corposa, di amanti abbandonati, mariti cornificati, mogli ansiose, che come vendetta amorosa poi mettono in rete le foto personali intime, che fanno parte comunque di un gioco amoroso molto moderno. Oggi vogliamo lasciare traccia di ogni nostro momento epico, quindi anche dei momenti d'amore. Ecco, a te sono mai caduti casi del genere, di gente che teme lo sputtanamento in rete delle proprie passate vicende amorose? Sì, purtroppo sì, e sta sempre più accadendo con frequenza. Ahimè, questo è uno dei problemi, ovviamente, tra i tanti benefici, almeno io sono ovviamente un amante delle nuove tecnologie, certamente la possibilità di avere nuovi canali di comunicazione può generare questo problema. Mi sono capitati dei casi anche piuttosto tristi, dove appunto sono stati pubblicati delle foto addirittura pornografiche, e quindi anche lì bisogna poi appunto sempre andare alla radice del perché poi sono state scattate quelle foto, però certamente non sono state scattate per una diffusione online libera. Mi sono capitati dei casi dove sono stati appunto inseriti in siti diciamo di escort, quindi di donne di facile costume, delle persone invece assolutamente che non facevano questa professione, con i numeri di telefono, con i dati personali. Sì, quindi... ho un caso di un quarantenne sottufficiale dell'esercito di Civitavecchia che ha patteggiato un anno di reclusione perché si era vendicato con l'ex fidanzata mettendola in rete come se fosse appunto un escort a caccia di clienti. Ha fatto un mix fra foto della fidanzata, immagino, che ne so, al mare in costume da bagno, e foto delle escort che si offrivano. Quindi esiste però questo rischio? Esiste tanto. E poi c'è un altro tema, stiamo avvicinandoci moltissimo al tema del cyber stalking, cioè nel senso che è un tema complesso, ossia le molestie sessuali via internet, che è un altro tema molto, molto intricato, perché molti giuristi dicono effettivamente una molestia sessuale fatta via internet ha molta più efficacia di quella, diciamo, tradizionale, e invece lo strumento giuridico che noi abbiamo, che è l'articolo 660, è uno strumento che prevede l'arresto fino a 6 mesi, che in Italia vuol dire praticamente nulla. Allora resta solo un secondo in ascolto, perché potrei dare un punto iniziale di come comincia il cedimento. Tu hai parlato di un'esperienza, sono d'accordo con te. È facile che ci si lasci andare all'emozione di un corteggiamento, perché è bello sentirsi gratificati, perché nessuno da secoli non ci dice più che siamo persone decenti e graziose, perché una foto magari scattata in un certo momento dà di noi un'immagine che mai avremmo pensato che potesse suscitare l'attenzione di qualcuno. Comunque ci si mette in un giro in rete e si comincia con persone che, con ben altri intenti naturalmente, sono veramente dei professionisti della seduzione in rete. Il serial web lover è un personaggio molto discusso in rete, non abbiamo trovato uno, abbiamo cominciato a fargli raccontare come lui agisce. Io mi chiamo Gianni Santoro e ho quasi 50 anni, praticamente navigo su internet da 15 anni e attraverso questo sistema mi è capitato di conoscere più di 600 donne. Diciamo che gioca molto il fatto di avere una buona dialettica, di avere ovviamente un modo discreto, non bisogna essere volgari. Da questa esperienza è nata l'idea di scrivere un libro e che si chiama Astenersi per di tempo. Astenersi per di tempo è la classica formula che taglia le gambe a tutti i flaneur, a tutti quelli che vogliono semplicemente annusare da lontano il piacere di una relazione e non hanno il coraggio di mettersi in gioco. Beh, questo signore di professione seduce signore, signorine, signori di buona famiglia, brave ragazze di paese, donne perdute. Perché? Perché ha un sacco di tempo a disposizione e conosce bene i segreti della rete. Il mondo delle chat, essendoci questo paravento del PC e della tastiera, a volte può aiutare una donna a raccontarsi di più. Paradossalmente magari si apre di più con uno sconosciuto, devi insomma conquistarla un po' anche con la dialettica. Tanto le chiedo come le piace vestirsi, perché per me l'abbigliamento è una componente fondamentale. Poi si entra in argomenti un po' più espliciti, tipo la biancheria intima, però quella è una cosa che di cui devi parlare solo se hai già stabilito un certo grado di confidenza. Dopodiché, se ci sono poi dei presupposti, c'è questa telefonata, e fino ad arrivare a questo fatidico incontro dove in effetti viene svelato un po' l'arcano. Lì non si può poi badare più. Poi ci ripenso, apro il computer, lui mi vuol bene, mi sa ascoltare. Mi fa capire che se io soffro devo gioire perché sono. questa è Francesca Lemanno, la nostra cantante da cucinino, che ricorda anche lei come è caduta nelle maglie della rete. 800 24 00 24, appena scritto su Facebook: siete dei moscioni, bravi a scrivere e meno a parlare, dando il numero di telefono. Sì, perché sono tutti bravissimi, stanno raccontando cose meravigliose, ma nessuno chiama questo numero perché c'è la riservatezza nel mettersi in gioco. Diana dice: quelli che ti chiedono la biancheria intima e quando chattano mi irritavo sommariamente e li mandavo a quel paese. Emanuela poi mi dice: il web seduttore usa la tastiera e il suo cervello come un tempo uomini e donne usavano le mani, gli occhi, tutto il corpo, nelle piste da ballo, nelle balere, nei dancing, nei nightclub. Non a caso la tua sigla è un tango passionale, si vede che siamo della stessa generazione. Ahimè, non grande bella generazione. Luigi dice: l'avvocato ha assolutamente ragione, il problema è l'ignoranza del mezzo e la conoscenza più oracolare che scientifica dell'informatica. È vero, se conoscessero meglio poi le derivazioni e le declinazioni del proprio usare una macchina per relazionarsi, si rischierebbe meno. Bruno: la comunicazione digitale denuncia immediatamente la cultura di una persona, il suo modo di esprimersi, gli argomenti tirati in ballo, ma soprattutto dietro allo schermo forse riusciamo a dire quello che non avremmo mai confessato direttamente. Forse un nuovo riversare le nostre angosce, le nostre segrete speranze, senza ricorrere allo psicologo. Silvia dice: l'incastro giusto non l'ho trovato online, ma l'aggancio giusto sì. Viva le tecnologie multimediali e l'avvicinamento, si è aperto un messaggio, alle persone, grazie. Poi adesso, ecco, era successa una cosa meravigliosa, mi hanno detto di non dirlo, ma la dirò. Paolo Corleone era andato in tilt. Perché? Perché parlando oggi di macchine che mettono uomini in relazione, la macchina che vi fa ascoltare i contributi audio si è impallata, si è bloccata. E Paolo aveva la sudarella e Fabrizio Intonti guardava ridendo, con l'aria inebetita. Non sapevano che fare, quindi io parlavo per riempire lo spazio. Ma adesso finalmente possiamo farvi sentire la parte che non abbiamo mandato prima in fascia protetta, poi qual è la fascia non protetta, non lo so, è del seduttore online, ve la facciamo sentire adesso. Ci sono situazioni dove tu finisci a letto con la donna che hai conosciuto la sera stessa, però poi solitamente non la vedrai più, perché è un po' una sorta di buona la prima, e quindi sai che hai cominciato dalla fine, quindi come leggere un libro quando leggi l'ultima pagina che sai già che è il colpevole, non ne vale la pena. Altre volte invece ci sono delle situazioni che partono male, pensi che non piace alla tua interlocutrice, e quando invece poi basta poco, magari basta una parola che ti dice, uno sguardo. Certamente se al terzo incontro non hai combinato nulla, vuol dire che o non ti piace lei o tu non piace lei, insomma, i casi sono questi. Vito, buongiorno. Salve, buongiorno. Lei è un pass da run del computer usato come macchina da lavoro, fine. Sì, ma non è solo questo. Innanzitutto non sono il tipo che dice che le cose che penso siano sempre le migliori. In realtà sono un creativo e quindi sono una persona, mi sento molto sempre proiettata verso il futuro, verso le idee, verso tutto. Insomma, uso internet e computer da quando esistono, praticamente sul sistema Apple, per esempio. Ma in realtà quello che non riesco a fare è ma istintivamente, non perché abbia delle precauzioni mentali specifiche, è quello di raccontarmi nell'intimo o comunque andare anche semplicemente un po' più al di là della forma di ricerca tecnica o scambio scientifico su degli argomenti o roba del comunque genere. Gli strumenti di messaggeria, i client per comunicare, Skype, li usa per lavoro comunque in ogni caso? Sì, li uso, però per esempio mi avevano inserito nel Facebook, no? Uh-huh. Un'amica, una psicologa in particolare, e per curiosità mi sono affacciato. Io in genere non ho forse neanche la tendenza a interessarmi delle chat in maniera specifica, insomma, e mi sono praticamente cancellato dalle liste dopo neanche una settimana, perché a parte il fatto il minimalismo della comunicazione, questi flash, queste domande, queste andate e ritorno, cioè io ho bisogno in buona sostanza, e credo nel rapporto con le persone, di sentire, che so, l'odore del... Sì, ma ha sentito il vero professionista, colui che conosce l'uso del telecomando, capace a spegnere una passione nel momento del culmine, lo dice. Poi lui lo usa come semplice strumento di accalappiaggio di esseri umani, accalappiaggio con il termine più vasto possibile. possibile. Quindi non è che la relazione virtuale sostitutiva della reazione concreta, è uno strumento contemporaneo che permette di velocizzare i tempi, si sta radicalmente trasformando la maniera del preliminare della relazione. Scusi Nicoletti, sì, ci prego. Possiamo anche dare del tu, Nicoletti? Insomma. Ma sì, mi devi dare del tuo, poi non mi, quello che vuoi, del voi, del lei. No, per carità, e per quanto riguarda proprio questo, ma chi l'ha detto che bisogna accelerare i rapporti di conoscenza? Ma nessuno, ma guardi che ognuno fa quello che vuole. Appunto, anche per me è la stessa cosa, il discorso è Io penso che sono stato sbagliato. Tutto sì, sì, no, ma è un confronto di opinioni, per fortuna. Per chi sta dentro c'è anche gente che non si diverte a stare dentro, per chi sta fuori c'è curiosità di entrare dentro, per chi sta dentro si può stufare di stare dentro e uscire fuori. La vita nasce e si propaga sempre con un dentro e fuori. Abbiamo Pierluigi. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca, a te e a tutti gli ascoltatori. Tu sei su posizioni mi sembra antitetiche rispetto al tuo collega. Allora, ni nel senso che anch'io sono, diciamo, posso definirmi un professionista del computer, uso il computer, la rete praticamente da sempre, da almeno da quando è arrivato in Italia, e non sono d'accordo sul fatto che la chat sia uno strumento di rimorchio. Io ho cominciato no, a chattare... chi lo chiama mai detto? Non è assolutamente così, non lo sosteniamo per nulla. Abbiamo detto che può capire... Sì, no, ho cominciato a chattare quando non c'era ancora Messenger, Skype, tutti questi strumenti. Ho cominciato a chattare quando l'unico modo per chattare era collegarsi a un server di Amsterdam, perché in Italia non ce n'era. Sì, ce lo ricordiamo un po' tutti, chi ha passato quei tempi, sì. Non cambiava nulla, sostanzialmente non è che l'aumentare dell'aspetto immaginifico che offre la possibilità tecnologica, gli avatar, i mondi interattivi online abbia cambiato il senso. Già la prima chat con IRC, mi ricordo, o RC, esatto, come vogliamo chiamarlo, che era solo testo, permetteva delle fughe fantastiche verso il nostro prossimo. Ma proprio per questo ho al telefono adesso un amico che di queste cose si dovrebbe occupare, perché fa avanti e indietro con gli Stati Uniti continuamente. Mattia Crespi, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Mattia Crespi, non so come definirlo, è un programmatore e agente immobiliare di mondi virtuali. Protesi emozionali. Ecco, tu le fabbrichi, le costruisci, le vai in giro. Oggi è uscito in una free press che mi hanno dato nella metropolitana un pezzo, ho scritto che fine ha fatto Second Life, sfonda il mercato virtuale, dopo il boom del 2007 il mondo virtuale è a rischio estinzione. Ora io ho tartassato le gonadi al mio pubblico per un anno, perché stavo scrivendo un libro, Second Life, su quello che accade nei mondi virtuali, sugli avatar, sulle ricostruzioni fantasmatiche. Ma oggi a che punto stanno le protesi emozionali, tu che le costruisci? Ma allora, le protesi emozionali stanno ad un punto in cui c'è un grande fermento, un grande sviluppo su una definizione appunto dell'avatar più che dei mondi virtuali stessi, nella creazione di uno standard di avatar che ci permetta di navigare in diverse piattaforme in 3D. Poi Second Life è stato sicuramente un fenomeno mediatico, è stato considerato da molti come un nuovo Lo spiego media. Mattia, perché abbiamo un pubblico che non sempre è a conoscenza di queste cose. Si parla di persone che si incontrano attraverso il computer in dei mondi che sembrano dei videogiochi bellissimi, in cui noi siamo rappresentati da un pupazzo che ci costruiamo. Io posso essere un guerriero medievale, la signora che mi ascolta può essere una principessa o una danzatrice di lap dance. Ci incontriamo e facciamo esattamente quello che si fa nel mondo virtuale, nel mondo concreto, solo che lo facciamo facendo muovere le nostre marionette con la nostra tastiera. Vai Mattia. Esattamente, quindi si creano nuove forme di interagire, nuove forme di relazionarsi con gli altri, e questo avatar che tu hai ben descritto sta assumendo sempre di più la connotazione della nostra futura ID digitale, della nostra futura. Ecco, ma quale può essere il futuro di questo gioco che ha appassionato tante persone, che è stato un fenomeno più che altro giornalistico nella sua onnipresenza? A cosa servirà tutta la sperimentazione che ancora decine di migliaia di persone, se non più, stanno facendo giocando con i pupazzi virtuali? Ma c'è molta sperimentazione, ma cominciano anche ad esserci molti utilizzi reali di tutti i giorni nella vita professionale. In Italia si è notato moltissimo e si è parlato molto degli aspetti emozionali dei mondi virtuali, della vita sociale che avviene in questi mondi, si è parlato forse poco degli utilizzi che si possono avere nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, le attività che possono svolgere aziende e che tuttora svolgono. Per quanto riguarda situazioni strane, ce ne sono state tantissime. Ci sono donne che magari prendono l'iniziativa e ti saltano addosso dopo mezz'ora, dopo un'ora, o ti fanno capire chiaramente che vorrebbero finire la serata in un certo modo, o donne che si presentano al primo appuntamento, non ti hanno mai visto, non sanno chi sei, potresti essere anche un potenziale criminale, si presentano con dei tacchi vertiginosi, con la minigonna, con le calze autoreggenti, e appena vedi una donna capisci se ti piace. Difficilmente la seconda volta ho visto in una donna delle cose, cioè al secondo appuntamento delle cose che non avevo notato nel primo, però mi piace vedere quante donne in gamba, donne brillanti, donne anche belle e affermate proprio nel campo sociale, si rivolgono alle messaggerie. Cioè, tu pensi che queste donne non abbiano alcun problema nel conoscere uomini, pensi che abbiano la fila, e invece chattano e sono disposte a incontrare una persona conosciuta così a livello virtuale. Io ho conosciuto donne dirigenti d'azienda, imprenditrici, cioè persone veramente in gamba. Stivali rossi e minigonna nera, capelli più chiari e lunghi del normale, se per i picchiataste Questa è una teoria che stiamo seguendo con cocciutaggio dall'inizio di questa edizione di Melog 2.0. Perché donne meravigliose sono sole? Forse l'ascoltatrice mia può dirci qualcosa in più. Perché donne affermate, affascinanti, senza nessun problema vanno a cercare amanti virtuali, Mia, secondo lei? Perché quelli reali hanno deluse. E allora, siccome sono anche molto selettive, pensano di poter scegliere forse online, però poi in realtà non funziona neanche quello, secondo me. Io non so, queste signore che si presentano agli appuntamenti, ma io dopo un paio di esperienze semi virtuali ho lasciato proprio perdere. Com'era andata? Ma no, più che altro è andata che tu, cioè a me è successo, non, io non chatto perché non mi è mai interessato, ma è successo magari di conoscere delle persone che poi avevano il tuo cellulare o l'email e via mail si sbottonavano in seduzione. Sì, comunque guarda, non chatti, ma usando sistemi elettronici di comunicazione è la stessa cosa. L'email permette all'uomo di sbottonarsi in maniera più... Una deve averla già vista. Comunque, beh, sì, la differenza è sottile. Comunque il discorso è che la gente invece si Sì, rammata. Ma scusami, è una conquista dell'intimità graduale e molte volte non percepita. Perché l'uomo che si sbottona via mail, e tu hai usato un termine che in sé è significativo, è simbolico, già carpisce qualcosa della tua intimità e tu non te ne accorgi. No, ma infatti sì, solo che succede che poi alla fine si crea un'intimità virtuale che poi alla luce dei fatti poi non si concretizza. Anzi, secondo me è peggio. Se io ho delle seduzioni di SMS, l'altro giorno eri bellissima, avrei tanto voluta, poi alla resa dei fatti queste persone qua poi si definono fisicamente. Ma forse tu li spaventi perché sei troppo procace fisicamente. Ma che procace? Non lo so. Sono procace per... No, ma gente che già mi conosce, solo che c'è gente che proprio gli piace sedurre solo virtualmente. Cioè va avanti così per settimane. C'è una mia amica che sta con un tipo olandese virtualmente, si mandano un SMS un giorno sì, un giorno no, questa appesa a questo filo. Cioè, voglio dire, poi ogni volta che lei dice, vabbè, incontriamoci, questo accampa delle scuse assurde così. Quindi secondo me ormai è proprio parallelo il discorso. Cioè questo signore, questo Valmon, come si chiama, Santoro, questo signore qua, che dice astenersi perdi tempo. Se vuoi ti passiamo dopo il nickname. No, non lo voglio. No, il discorso è che, vabbè, lui racconta una realtà di poi persone che si vedono, si consumano questi atti. Però lui dice poi, sai, sì, va a vedere. Al mio paese dicono, lo dico in perugino, chi il fa nel dice, chi il dice in campa, quindi... Sì, però invece c'è tutta una schiera di persone che si limitano così, ma io addirittura c'era una persona al lavoro che mi scriveva di notte messaggi romantici, poi la incontravo, tipo, buongiorno, io dopo forse ho sbagliato numero, no? È andato avanti un anno e mezzo con queste cose, mi chiamava solo di notte quando io non potevo rispondere, oppure mi scriveva cose meravigliose, e poi io dico, vediamoci, che ne so, lui, no, veramente, qua... Insomma, a me sinceramente queste cose ormai non interessano più. Vabbè, noi uomini e me abbiamo grossi limiti, siamo molto onirici, siamo molto spaventati. Questo poi lo sai bene, se non saresti così sicura. Grazie. Mattia Crespi, scusa, io ti avevo interrotto prima, però ti ho dato qualche elemento in più. Io penso che ogni progresso dell'umanità attraverso l'uso di macchine passi necessariamente attraverso una fase in cui l'emozione predomina. Gli uomini e le donne imparano a usare le macchine emozionandosi, fuggendo via, scappando, comunque fa parte del gioco amoroso, e poi magari le usano per cose forse più utili all'umanità. Sei d'accordo? Hai qualche esempio in merito? Sì, assolutamente. Si inizia scoprendo di avere delle emozioni anche attraverso queste protesi, e poi si razionalizzano queste emozioni, si scoprono nuovi modi di interagire con le persone e quindi di fare cose. Il processo è comunque tipicamente ritengo abbastanza lungo, ci vorranno ancora degli anni. Cambiare modo di fare o di relazionarsi alle persone è sempre la cosa più difficile. Però io vedo che chi inventa questi mondi paralleli dà un'idea di gioco. Vi do una grande Disney World in cui potete giocare, ma giocando imparate a usare la macchina. I miei figli sanno usare il computer perché hanno iniziato a giocare all'età di 2 anni e oggi sanno fare quello che io sapevo fare a 40 anni, ecco. Sì, assolutamente, c'è una rapidità di apprendimento totalmente diversa. Sono anche sistemi che aiutano questo, cioè uno scambio molto più veloce di informazioni, una comunicazione molto più diretta, che a volte delude anche. Cioè, sentivo prima un intervento in cui si diceva che la comunicazione così diretta, immediata, scarna, delude quasi rispetto alla ricchezza che le parole o lo scrivere possono avere. Noi siamo abituati, ormai abbiamo bisogno di messaggi molto immediati, molto rapidi, perché siamo quasi sempre in multitasking, siamo presi. Sì, ma io ti faccio un esempio. Una delle forme poetiche che più raggiunge il bersaglio è l'haiku giapponese, che sono semplicemente 3 versi, semplicissimi, però in cui può essere racchiuso un universo. L'umanità deve abituarsi che la contemporaneità va veloce e i discorsi devono essere sintetici ma con un'altissima valenza poetica, devono raggiungere l'obiettivo in poche parole, quindi non siamo più nell'epoca dei poemi amorosi o delle lunghissime sdilinquenti dichiarazioni d'amore, ma adesso una parola, ma quella parola è che deve avere il potere smutandante in tutti i sensi, l'uso come metafora, in profondo. Beh, vorrei portarvi finalmente, perché sennò sembra che chiacchieri soltanto, all'uscita dal mondo virtuale, all'entrata nel mondo concreto del nostro amatore seriale. Gli incontri solitamente avvengono in posti diversi. Ci sono donne che vi vogliono vedere di giorno perché non si fidano e quindi scelgono un luogo affollato, magari un sabato pomeriggio. Altre donne che invece rischiano, se così si può chiamare, questo rischio di vederti dopo cena. Io preferisco, perché il dopo cena è più discreto, puoi andare in un bar. A volte ti vedi in un grande parcheggio di un grande magazzino, ti vedi magari davanti a un locale. Poi dipende, magari a volte vado anche in un'altra città, quindi magari non conoscendo bene quella città dove mi trovo, chiaramente vicino a Milano, cioè senza andare a Torino o cose di questo tipo. Allora a quel punto magari ci incontriamo all'uscita di un'autostrada. Ogni esperienza umana, ma questo è un mio parere, suscettibile di ogni tipo di giudizio o pregiudizio, si effettua con delle rapide o lunghe o prolungate uscite dal mondo. Per capire e conoscere qualcosa che non appartiene alla nostra esperienza occorre uscire velocemente dal mondo e rientrare nel mondo se possibile. Ma anche il tempo del sacro, il rito, era un'uscita dal mondo, entrare in un tempo che non è quello del quotidiano. Beh, oggi certe macchine ci permettono uscite rapide dal mondo, uscite con ritorni controllati per qualcuno, con ritorni incontrollabili per qualcun altro, con piacevoli ritorni, come penso che sia il caso di Simon, che ci ascolta e con lui chiuderò la trasmissione. Simon, buongiorno. Ciao Gianluca. Ah, ecco, dalla voce riconosco una voce di antico Melogman, ho sentito altre volte parlare in trasmissione. Allora Simon, tu non lo sapevo, non mi interessa, ma però ce lo devi dire questa mattina, hai avuto una trascinante storia che nasce attraverso un computer. Ne ho avute due, per la verità. Addirittura. Molto simili, ma con tecnologie ben diverse. Sei un cyber bigamo. La prima era vecchia di 30 anni, lavoravo e andavo spesso fra Mantova e Bologna. E ammirandola c'era una meravigliosa saetta 5 che accompagnava nei viaggi serali camionisti e chiunque sull'autostrada ascoltava i CB. Vediamo se in 20 secondi sa dire come va a finire. Già. E sono riuscito ad incontrarla ed è la cosa più divertente, una professionista affermata oggi, con un po' di pudore nascondiamo che la nostra conoscenza è venuta tramite un supporto tecnologico. Per vergognate, molto meglio conoscersi magari in un bar, in un'osteria, in un meeting di lavoro, durante una conferenza, che conoscersi attraverso un computer. Perché? Una borderline delle conoscenze. E la stessa cosa è avvenuta con la mia attuale compagna. Ci siamo conosciuti in un newsgroup, partecipavamo entrambi, e era di interesse musicale. E adesso state felicemente insieme. Sì, la cosa che però vorrei sottolineare è la selettività. Sono molto selettivi, si riesce a conoscere molto delle persone dalla maniera in cui scrivono, dalla maniera in cui affrontano gli argomenti. Forse è molto più selettivo il mezzo tecnologico di quanto non lo sia una conoscenza. Le persone che non riescono a essere selettive sono quelle che poi leggiamo il giorno dopo sulle pagine di Cronaca Nera, che hanno fatto un incontro sfortunato. Quindi state attenti, ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.